Possibile che ci siano ancora persone che credono che la Terra sia piatta? Google ha rivelato che il numero delle ricerche sull'argomento è triplicato negli ultimi 2 anni. Vai al mare e scruta l'orizzonte. La linea che vedrai è chiaramente curva. E se non ti basta, osserva una nave mentre si allontana. Con una buona visibilità, vedrai che sarà la parte superiore della nave a scomparire per ultima. Non siete ancora convinti? Provate a spingere qualcuno giù dall'orlo della Terra. No. Aspettiamo, aspetta un attimo. Cos'è che ha detto? Vai al mare e scruta l'orizzonte. La linea che vedrai è chiaramente curva. Your Honor. Salve a tutti. Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Io sono Gabriele e... Non ce la fo. Oh... La linea dell'orizzonte è curva. Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Io sono Gabriele, grazie a Radio Big World. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato una puntata. Comunque spero non vi siate persi le ultime novità che sono successe riguardo la NASA, lanci missilistici o macchine che vanno nello spazio. Sì? Chi è? Bill Nye the Science Guy. Oh, Bill, quanto tempo. Vi ricordate tutti di Bill Nye the Science Guy, vero? Sì, è quello che ha detto. Ricordiamo le parole che ha detto Bill. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. Dice che non possiamo uscire dalla Terra. Non c'è nessun posto dove possiamo andare. La Terra è un sistema chiuso. Bill lo richiamato in causa perché ce l'ha un po' a morte con i terrapiattisti. Per quale motivo? Perché ultimamente, no, sì, ultimamente ha fatto diversi interventi sia in radio che in televisione, anche su Facebook addirittura, con video anche di pochi minuti, dove se la prende con i terrapiattisti. E sentiamo cosa ha da dire spesso contro chi va contro il suo credo, perché è un credo, perché quando crede a qualcosa di cui non hai le prove è una religione, a differenza di quello che facciamo noi, che diciamo che la Terra è piatta. Abbiamo le prove, ci sono le prove, le potete trovare da voi. Quindi sentiamo cosa ha detto Bill ultimamente. There's the whole thing now, the Earth is flat. Yeah, let's talk about that. Hey, flat Earth people, if you're out there, I tell you what, get a car, rent a car, and drive to the edge of the Earth. Send us some pictures. Yeah. Don't follow our theories. Ci dice, ehi, terrafattisti, perché non montate in macchina e ci mandate una foto? Andate alla fine della Terra piatta e ci ha mandato una foto del bordo. Bill, ehi Bill, perché non ci date una foto reale della Terra, della palla rotante? Mi sono senza parole, ma andiamo avanti, sentiamo quello che dici. What would be better is get in a spacecraft and look down. Wow. Ma cosa dice? Sarebbe meglio andare su uno spacecraft, su una nave spaziale e guardare in giù. Ma se è provato che ci sono tutte lenti a occhio di pesce o sono modificate al computer? Io no, non ho parole e si insiste ancora. Ormai sono anni che sono in questa cosa e sono anni che sento queste falsi scienziati che dicono le stesse identiche cose e la gente gli va dietro, gli va dietro. Vi voglio far sentire ora un pezzo del programma che aveva questo Bill Nye, The Science Guy, prodotto dalla Disney, per l'appunto. Abbiamo detto che Walt Disney ha aiutato la NASA insieme a Kubrick a fingere lo sbarco lunare, quindi fa parte di tutta questa marmaglia che ci inganna. Io non credo assolutamente che lui creda a niente di tutto quello che dice, ma assolutamente, se fosse davvero a livello che è di scienziato e di informazioni, dovrebbe essere disgustato e dovrebbe fare di tutto uno nella sua posizione per mettere fine a queste voci della Terra piatta. Invece no, cosa fanno? Deridono. Perché? Perché ci hanno insegnato a deridere chi la pensa in maniera diversa. Quindi sentiamo un attimo questo pezzo. Watch the ships sail away. They don't disappear all at once. Now first the bottom will disappear. See, the bottom of the ship is gone. Now we can see midway up, and then the whole thing disappears. Now ships came back, they didn't fall off a table. So people realized that the world is curved. Quindi, come vi ho detto, è un programma vecchio che guardavano bambini e ragazzi, che faceva lui, e qui spiega perché, come hanno fatto una volta a capire che la Terra era tonda e non piatta, perché vedevano le navi, e lì fa vedere un esperimento che fa vedere l'acqua curva, che sappiamo che è impossibile che l'acqua, se è ferma, non può curvare, non manipolata, non curva, trova sempre il suo livello, e fa vedere che praticamente la nave, prima, come ha detto all'inizio della puntata, quella lì, si vede la nave prima sparire dai basso fino verso l'alto, non la vedi sparire tutta insieme, e quindi sono arrivati alla conclusione che la Terra è curva, che l'oceano curva, e dice quindi la Terra è tonda. Boh, vi sembra possibile? Voi vedete la curva? Non lo so, non mi fate, mi fanno male gli addominali da quanto ho riso per questa puntata, quindi no, non mi fate ripensare a quella che dice l'orizzonte è curvo, vi prego. Osserva una nave mentre si allontana. Con una buona visibilità vedrai che sarà la parte superiore della nave a scomparire per ultima. Sì, ma lo sappiamo perché nessuno dice perché vediamo le navi fare questo effetto. Perché nessuno spiega il perché, per la prospettiva, perché nessuno dice della prospettiva. Non sentirete mai uno scienziato che dice la Terra è tonda parlare di prospettiva. Perché? Perché la prospettiva è quella che smonta il globo, è quella che smonta il fatto che le navi vanno dietro la curvatura. L'acqua non curva. È come dire che una macchina, perché tu la vedi sparire all'orizzonte, su magari un'autostrada super diritta, e tu dici che l'auto va dietro la curvatura, e vi rendete conto? Non ha senso, non ha senso. Ma non è finita, perché tira fuori anche Copernico. Sentiamo cosa dice riguardo a Copernico e come lo dice. Lo sapete, c'è una spiegazione a tutto, ma quella che danno loro, quella che ci hanno insegnato, è sbagliata. È una menzogna. Quindi sentiamo quello che dice su Copernico. Vai, Bill. Copernicus said if you want to predict the position of objects in the night sky, it's much better if you think of it as the Earth going around the Sun rather than the Sun going around the Earth. Allora, qui dice una cosa che non ha senso, perché mi hanno insegnato completamente altre cose, almeno sono cresciuto con l'idea che una volta guardavano la stella polare, cercavano la stella polare perché era l'unica che non si muoveva, era sempre fissa, puntava sempre a nord, e lo è tuttora, non si è mai spostata la stella polare, perché è il punto su cui gira, almeno questo è quello che credo io, la cupola. Però qui lui dice che Copernico ha detto che torna meglio pensare che se si vuole trovare la posizione di un oggetto durante la notte è meglio pensare che sia la Terra a girare intorno al Sole invece che il Sole a girare intorno alla Terra. Secondo me, ora questo è un parere mio, però nei libri sfortunatamente insegnano ai nostri ragazzi, come hanno insegnato a me, come continuano a insegnare, che Copernico ha fatto il giro del mondo, però come abbiamo detto basta fare est-ovest, o se partiamo da ovest e continuiamo ad andare e seguiamo ovest, torniamo sullo stesso punto dove siamo arrivati, abbiamo fatto il giro del mondo. Questo non dimostra che è una sfera, assolutamente, dimostra che ha fatto un cerchio. Nord si torna lì, nord-sud, trovatemi qualcuno che è partito dal polo nord seguendo sud e è ritornato al polo nord. Non esiste, non c'è, possibile? No, con tutti ci dicono di guardare le navi, ci dicono di guardare quello e l'altro, ma la verità qual è? Perché non ci sono prove? Perché non c'è nessuno che prende un jet e parte dal polo nord e ritorna al polo nord? Perché? Perché non si può fare, è impossibile. Perché come ha detto Bill, come disse, siamo in un sistema chiuso, non è possibile uscire. 1543, not bad. So 1543 people, not last week. Quindi ehi, 1543, non ieri, ma 1543, quindi bisogna credere a quello che ha detto qualcuno nel 1543. E poi mi viene detto che io no, c'ho la testa chiusa che vedo quello che voglio vedere. No, sono quegli altri che non vogliono vedere le cose come stanno e continuiamo a credere a una cosa detta nel 1543 così perché ce lo insegnano a scuola. Allora è la verità, ce lo insegnano a scuola, quindi però continuiamo. Qui era, questo qui era un programma alla radio e l'ha intervistato sulla Terra piatta, ovviamente ci ha preso in giro, però ha fatto anche un commento su Facebook con un video mentre lo preparavano, lo truccavano, cioè, tre truccatrici, quattro, non lo so, sentite cosa dice, ce l'ha con il bordo, sarà perché è l'unica cosa che non possiamo dimostrare perché c'è il trattato dell'Antartico, nessuno può andare al polo sud, però sentiamo cosa dice. Hey flat earthers, why don't you go to the freaking edge and take a picture of the flat earth and come back. Con questa cosa di bordo veramente ha straziato, con questo bordo, ma non ci sono foto reali della Terra, ve ne rendete conto? Non esistono foto reali della Terra ripresa dallo spazio. Non vi fa venire qualche domanda? Invece di sfottere e dire dov'è il bordo della Terra piatta, se è piatta dimostrami che c'è il bordo, no, dimostrami te che è tonda, perché tutte le prove, tutte, matematica, fisica, le leggi della natura, le leggi della fisica dimostrano che è piatta. Quindi perché sfottere qualcuno che dice che non è tonda? Con questo vi saluto, aprite la vostra testa perché c'è del vero all'interno, e dall'Arcadia è tutto. Grazie a Radio Big World, alla prossima, ciao.